Ero seduto su quella panchina al parco, senza senso a fianco a me si era seduta una signora. Mi ha detto che sei quella giusta, quella che anche se sei perso in fondo al mare, prima che anneghi ti trova. E che se il mondo girasse come dovrebbe, due come noi starebbero insieme per legge. E che se il mondo girasse come dovrebbe, ma il mondo no, non sa girar come dovrebbe. Fa quello che gli pare, noi uguale, noi uguale. Fa quello che gli pare, noi uguale, noi uguale, noi uguale. Sempre col vento contro, sempre col mare mosso, sempre perché è l'unica parola che conosco. Sempre ad ogni costo, sempre fino a che posso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che, sempre che. E alla fine ho letto anche quel libro strano di quello scrittore bravo, ma che nessuno capisce. E ho capito che si ama se si donano le proprie preferenze solo a chi si preferisce. E che se il mondo girasse come dovrebbe, saremmo noi due quelli che preferirebbe. E che se il mondo girasse come dovrebbe, ma il mondo no, non sa girar come dovrebbe. Fa quello che gli pare, noi uguale, noi uguale. Fa quello che gli pare, noi uguale, noi uguale, noi uguale. Sempre col vento contro, sempre col mare mosso, sempre perché è l'unica parola che conosco. Sempre ad ogni costo, sempre fino a che posso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che l'universo non ci crolli addosso, sempre che, sempre che. Cosa posso farci se colleziono sbagli? Sono pieno di torti, torti nei tuoi confronti. Ti fanno andare via, poi non vedo l'ora che torni. Muoio di nostalgia, ma poi vivo dei nostri giorni. Perché tu per me sei una canzone da ballare, l'acqua che sa di sale come fossimo al mare, anche se siamo soltanto qui ad aspettare, qui ad aspettare. Sempre col vento contro, sempre col mare mosso, sempre perché è l'unica parola che conosco. Sempre ad ogni costo, sempre fino a che posso.